Cesk Sik Gjovas Per Erma Green Company Ambiente tana, ambiente tana, ambiente tana. Di questi tempi tocca stare attenti, soprattutto delle facce sorridenti. Dopotutto, se ci pensi, scommetto che non serve che ti faccia degli esempi. Eppure non ci riesco, sono troppe le cose che detesto, costretto a rivederle quando esco. Ma che mondo è questo? Dove uno conta in modo esponenziale, in base a quanto monta il totale del capitale. Nell'era materiale mancano soldi, ma non manca nessuno un bel cellulare. Bling, bling. Che senza esagerare può costare come una rata del mutuo da pagare. Ma non ti preoccupare, tranquillo, rilassati. Oggi è pieno di agenzie che fanno prestiti, mettiti in fila, che andando avanti a rate ci metterai una vita. Questi sono tempi, hey. Oh. Moderni poi che empi, oh. Vi porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare ma parlo per terzi. Questi sono tempi, hey. Oh. Moderni poi che empi, oh. Vi porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare, tu ci senti, senti. Giovani passivi popolano baretti, prima gli aperitivi, poi vari progetti. Ammetti, pensavi che parlassi di fighetti, ma ultimamente ha contagiato anche altri soggetti. Non dico tutti, ma poco ci manca che qualcuno chiami cambio dalla panca. Vedo talmente tanta di quella gente in bianca che mi sembra di tornare indietro negli 80. Se lo sapesse mamma sarebbe preoccupata, a meno che non è da lei che l'hai comprata. Raccontala in prima serata sotto i riflettori, così avremo anche un'impennata degli ascoltatori. Se sei fuori, imprenditori di valori, a caccia degli orrori, omicidi tra figli e genitori, violenze nelle scuole e oratori, meglio che mi censuri perché mi sono rotto. Questi sono tempi, oh. Moderni poi che empi, oh. Vi porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare ma parlo per terzi. Questi sono tempi, oh. Moderni poi che empi, oh. Vi porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare, tu ci senti, senti. Questi sono tempi, hey. Oh. Moderni poi che empi, oh. Ti porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare ma parlo per terzi. Questi sono tempi, hey. Oh. Moderni poi che empi, oh. Ti porto degli esempi, oh. Non parlo per parlare, tu ci senti, senti.